Allora, di che parliamo oggi? Ma guarda, un po' ti rubacchio il tema, anche se, come dire, lo affronto. Rubo. No, parliamo non utilizziamo questo verbo in questo periodo perché... Allora, parlo di conciliazione. Sai che cos'è? Certo, ma adesso lo scoprirò. Ti è mai capitato? No, guarda, te lo faccio scoprire io. Ti sarà capitato di andare, che ne so, per esempio in lavanderia e di ritirare un capo che avevi fatto ripulire e che era invece in condizioni pessime. Magari l'hai trovato rovinato. No, sono sempre stato abbastanza fortunato. Ma però, insomma, quello magari è un tipico caso per il quale potrebbe esserci la necessità di, come dire, discutere con la lavanderia in questione. Magari non si arriva ad un accordo per essere risarciti. E si concilia magari alla Camera di Commercio. E allora, come dire, le vie della... non della giustizia alternativa, perché l'ospite che abbiamo stamattina mi ha detto espressamente di essere precisa su questo, ma delle alternative alla giustizia sono tante. E allora questa mattina ve le spieghiamo, perché c'è un boom dei ricorsi a quei meccanismi stragiudiziali per evitare quanto più possibile di andare davanti ad un tribunale, soprattutto se dobbiamo affrontare piccoli conflitti e controversie di natura economica. E allora se ne è fatto il punto i giorni scorsi in un convegno a Milano. Buongiorno a Marcello Guadalupe, consigliere delegato alla conciliazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano. Dottor Guadalupe, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Benvenuta a Soldi e Dintorni. Ho detto bene, giusto? Lei ci tiene molto a questo. Non parliamo di giustizia alternativa, ma delle alternative alla giustizia. Sì, perché in effetti quando parliamo di conciliazione noi parliamo di un sistema alternativo alla giustizia. La conciliazione non è un giudizio, il conciliatore non è un giudice che decide sulla controversia delle parti in conflitto, ma è colui che facilita le parti a trovare una soluzione non più basata sulla... rapporto avversariale che esiste in un conflitto, ma è basato soprattutto sugli interessi delle parti, quindi gestisce la comunicazione tra le parti, facilitando appunto quella che è la negoziazione che si attiva proprio valutando quelli che sono gli interessi delle parti. Allora, prima di adire alle vie legali, naturalmente per risolvere un conflitto economico che possiamo ingaggiare, per esempio, con un'azienda che ci ha leso in qualche maniera, per esempio la bolletta della luce banalmente, che può essere più alta del previsto, quella telefonica, ci sono tanti piccoli casi che poi magari potremo anche raccontare ai nostri ascoltatori. Allora, ci sono due opportunità che abbiamo per poter risolvere questi conflitti, queste controversie economiche. La conciliazione parzialmente, dottor Guadalupe, ce l'ha spiegata, ma adesso ci entriamo ulteriormente nel dettaglio. C'è però anche un'altra via, che è quella dell'arbitrato. Quali sono le differenze? Beh, l'arbitrato è praticamente un giudizio di tipo privato, cioè viene delegato a un collegio arbitrale la decisione su una controversia, per cui a tutti gli effetti nell'arbitrato c'è un giudizio alle quali le parti devono attenersi e quindi a tutti gli effetti lo subiscono. Quindi la conciliazione invita le parti a parlarsi, a discutere, poi magari la situazione può anche rompersi successivamente. Esattamente. Con l'arbitrato invece c'è una figura che stabilisce chi ha ragione o meno, e quindi evidentemente stabilisce anche una sorta di risarcimento l'arbitro poi? Esattamente. E la bellezza, la particolarità della conciliazione sta proprio nel fatto che le parti decidono loro del proprio futuro, della propria controversia, quindi basandola su quelli che sono i loro interessi, i loro bisogni e le loro necessità del momento. Un arbitro di cui abbiamo parlato molto recentemente, quello che è stato istituito appunto proprio in tempi molto recenti, l'arbitro bancario finanziario. Per quello che riguarda invece i tavoli di conciliazione, dottor Guadalupe, quali sono quelli più, mi viene da dire, frequentati, ma quelli più ricercati dai consumatori e quelli più noti, diciamo? Ma i più noti sono quelli che vengono conosciuti perché la normativa li rende obbligatori, tipo quelli nell'ambito delle telecomunicazioni, e in questo ricordiamo la figura del Corecom, istituita appunto per dirimere quelle controversie tra gestore e utente finale. Le altre sono quelle che riguardano le subforniture, ma pian piano il consumatore comincia a conoscere anche tutti gli altri ambiti. Perché come emergeva anche dalla tavola rotonda di lunedì presso la Camera di Commercio di Milano, oggi il consumatore percepisce la conciliazione quasi come obbligatoria e quindi partecipa anche volentieri nel momento in cui dalla sua parte trova un consulente che è capace di suggerire questo metodo stragiudiziale proprio per aiutarlo a dirimere la controversia in tempi più brevi. Volevo ricordare la ricerca fatta da Banca Italia, che dice che oggi in Italia per risolvere una lite impieghiamo 1995 giorni, e questo la dice lunga sulla nostra economia. Tenga presente che dopo 1995 giorni un'azienda sceglie di recuperare il 50% del suo credito. Incredibile. Per cui, fatti i due conti, ci rendiamo conto di quale possibilità abbiamo attraverso lo strumento della conciliazione. Anche se i numeri sono in crescita, però forse si potrebbe fare qualcosa di più. Diciamo che forse a volte sono strumenti poco conosciuti dai consumatori, dai cittadini, anche se per esempio c'è l'istituzione appunto delle Camere Commercio Italiane, che ogni anno organizza anche la settimana della conciliazione, proprio per portare sul territorio questo messaggio. Noi ne abbiamo parlato tanto spesso. In ogni caso, in un anno, dal 2007 al 2008, probabilmente i dati recenti daranno una crescita ulteriore, le richieste di conciliazione o ricorso alle alternative alla giustizia sono passate da 60.000 a 100.000. Il boom più importante lo ha registrato il settore delle cosiddette conciliazioni paritetiche, ovvero quelle all'interno di protocolli fra imprese e associazioni dei consumatori, più 178%. C'è il cosiddetto Consumer Forum, anche questo se gli ascoltatori sono fedeli alle nostre trasmissioni ne avranno sentito parlare, dottor Guadalupi. Certo, sì, infatti è una particolare conciliazione che viene gestita proprio all'interno delle aziende. Certo che la particolarità di questo tipo di conciliazione è che manca proprio la terzietà del soggetto chiamato a gestire l'incontro di conciliazione, quindi è percepita quasi come una conciliazione di parte, un po' il vecchio ufficio reclami di alcune aziende del passato, cioè la mia lamentela finisce alla stessa azienda e poi la stessa azienda decide attiva il processo di conciliazione su quella controversia, per cui è un po' fuori dalla vera e propria definizione di conciliazione, direi. Però in ogni caso i risultati li ha raggiunti strumenti. Allora, in molti si chiederanno questa mattina, ma insomma, perché parlate di conciliazione, di arbitri, e non avete chiamato un giudice conciliatore piuttosto che un arbitro, ma avete chiamato un commercialista? Per quale motivo, dottor Guadalupi, lo spieghiamo? Ma guardi, sul discorso dei professionisti il dibattito è del tutto aperto. Ci sono gli avvocati che dicono noi siamo i più bravi, siamo gli unici, i commercialisti dicono ma cosa dite, noi siamo ancora più bravi. Io direi che per sgombrare il campo da tutte queste polemiche... Fine non interessano molti consumatori che magari subiscono un danno da un'azienda o che comunque devono litigare con un'azienda e poi magari hanno anche ragione, può anche essere che hanno torto i consumatori, adesso non è che voglio, però certo. Comunque insomma, tanto per sgombrare il campo da confusioni ulteriori, in ogni caso qual è il ruolo del commercialista nell'ambito di questi procedimenti? Il ruolo del commercialista è il ruolo di una persona informata su queste procedure che aiuta i suoi clienti a trovare una soluzione, una strada alternativa alle lungaggini della giurisdizione italiana. Quindi poter consigliare il cliente a trovare la possibilità di poter essere pienamente soddisfatto nella soluzione del proprio conflitto attraverso una procedura che lo vede protagonista e non più come parte che subisce un eventuale giudizio del Tribunale. C'è una sede apposita che è la Camera Arbitrale di Conciliazione. L'Ordine di Milano ha istituito una camera arbitrale e di conciliazione, dove poter chiedere l'intervento di un conciliatore preparato e formato secondo i criteri stabiliti dal Ministero della Giustizia, ed è un organismo riconosciuto tra gli enti che possono erogare questo tipo di servizio proprio dallo stesso Ministero della Giustizia. A quale costo per i consumatori, dottor Guadalupi? Il costo è previsto secondo una tabella depositata presso il Ministero della Giustizia e parte da un minimo di 40 euro, fino a salire a seconda dello scaglione. A seconda del valore economico della controversia. Esatto, non abbiamo il tempo, dottor Guadalupi, devo salutarla per parlare della legge 69 che estenderebbe il campo della conciliazione. La invito un'altra volta per parlare anche di questa quando questa legge appunto vedrà la luce. Intanto buona giornata. La ringrazio, buona giornata presto, anche a voi. Alessandro. Eccoci, allora Deborah. Allora, oggi questa è la settimana in cui sto spezzettando tutta la relazione del governatore Draghi di sabato scorso al Forex e oggi parliamo della parte in cui ha affrontato il tema della commissione di massimo scoperto, perché le banche non tutte si sono comportate bene. E spezzettiamo Draghi. Spezziamo Draghi. Chissà se lo spezzettano a Francoforte, se andrà alla guida della Banca Centrale Europea. E lo scopriremo tra qualche mese. Sono le 8:32 minuti, un saluto da Alessandro Milan e allora le notizie in primo piano, l'inchiesta sugli appalti al G8, il capo della protezione civile Bertolaso dice resto al mio posto e ieri intervenendo a Ballarò non esclude di essere vittima di una trappola. Intanto restano in carcere le persone già arrestate. Per la cronaca, notte lontano da casa per i 2300 abitanti di Maierato in provincia di Vibo Valentia, evacuato ieri dopo un'imponente frana staccatasi da una collina. Oggi i controlli sulle abitazioni. Per lo sport invece, in Champions League partono male gli ottavi di finale per le italiane, il Milan perde in casa col Manchester 3-2 e ora i rossoneri dovranno vincere almeno 2-0 al ritorno in Inghilterra. L'altro ottavo di finale ieri, Lione e Real Madrid hanno vinto i francesi 1-0. Stasera tocca la Fiorentina in campo a Monaco contro il Bayern. E allora le 8:33 minuti, era giusto 18 anni fa, il 17 febbraio del 92, mani pulite, l'arresto di Mario Chiesa, e questo è il nostro sondaggio di oggi. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. Ci chiediamo, vi chiediamo, c'è una nuova Tangentopoli in arrivo? Ripeto, non c'è la corruzione, questa sembra una domanda banale, anche un po' stupida. Oggi il PM Carlo Nordio sul Riformista dice la corruzione c'è e ci sarà sempre, non c'è alcun rimedio contro la corruzione. Si può ovviamente cercare di arginarla, cercare di trovarla, ma vi chiediamo, ci sarà una nuova Tangentopoli come qualcuno dice, o il rischio di un azzeramento della nuova classe politica? Le inchieste, le intercettazioni, quello che c'è, i verbali li leggete su tutti i giornali. Dicevo, 17 febbraio 92, 18 anni fa, Mario Chiesa, una tangente, una bustarella che fu consegnata da un imprenditore, Luca Magni, che saluto. Magni, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Siamo diventati maggiorenni, mani pulite. Lei consegnò questa tangente al direttore del Pio, al presidente del Pio Albergo Trivulzio, Mario Chiesa. Quanto era la tangente in quel caso? Quella che ho consegnato era di 7 milioni di lire, quella che aspettava era di 14 milioni. 7 milioni di lire, tutto ripreso, i carabinieri erano con lei, il magistrato allora, magistrato Di Pietro, la seguiva con un microfono, una telecamera che non funzionò, insomma fu arrestato in flagranza di reato. Ha visto la vicenda, avrà seguito, di Milko Pennisi, presidente della Commissione Urbanistica a Milano, arrestato anche lì per una mazzetta consegnata nei giorni scorsi da un imprenditore. Che cosa ha provato? Ha rivisto in qualche modo, si è rivisto in quella scena? Ma allora, innanzitutto voglio sottolineare il fatto che ci sono voluti 18 anni perché un altro imprenditore andasse a denunciare prima che stava subendo un episodio di concussione, e questo è sicuramente un segnale. Per quanto riguarda il fatto in sé, io credo che sia un fatto, diciamo, isolato. Isolato, cioè secondo lei non è l'ipotesi da cui si può dire sta nascendo una nuova Tangentopoli? No, il discorso secondo me è che siamo in un momento diverso. Tangentopoli era un sistema che è nato e vissuto soprattutto per finanziare gli alti costi della politica, per cui era un sistema che coinvolgeva tutti i partiti dell'allora arco costituzionale. Io credo che oggi chi compie atti di quel tipo lo faccia quasi esclusivamente per un interesse di tipo personale. Per rubare, per avere un arricchimento, insomma. Esatto. Senta, ha sentito, come ha detto, il PM Nordio, Carlo Nordio, che tra l'altro è stato capo anche della commissione per la revisione del sistema del codice penale quando c'è stato il precedente governo Berlusconi, ha detto oggi al Riformista: rimedi per eliminare la corruzione non ce ne sono, si può ridurre, non servono pene più aspre, si può intervenire, ma la corruzione c'è, è insita, insomma, in noi. Ma guardi, io ho sempre sostenuto questa cosa. La corruzione non è solo fatta di rapporti fra imprenditori, fra politici. la corruzione anche nelle piccole cose banali, nel chiedere favori, nel chiedere raccomandazioni, nel cercare di avere comunque favori da chi in quel momento ha un potere. Per cui è difficile da debellare, è insita nell'uomo la corruzione. È diffusa e insita nell'uomo. Oggi Ernesto Galli della Loggia, in prima pagina del Corriere della Sera, fa un editoriale in cui dice: la verità è che è l'Italia la causa della corruzione italiana. Insomma, un po' quello che dice lei, sostanzialmente è in tutto la corruzione, è nei concorsi pilotati, è nell'evasione fiscale, è negli abusi edilizi, non è solo nella politica. Comunque Luca Magni, rimanga con noi. È tornata, c'è il rischio di una nuova Tangentopoli. Noi abbiamo chiamato due giornalisti che la pensano e ne scrivono oggi sui rispettivi giornali in modo diametralmente opposto. Filippo Facci ne scrive su Libero. Buongiorno Facci, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Così come Gianni Barbacetto, che ne scrive sul Fatto Quotidiano. Buongiorno Barbacetto. Buongiorno a tutti. Filippo Facci, perché lei scrive che è assolutamente sbagliato chi oggi dice c'è il rischio di ritorno di Tangentopoli? Ma se uno vuole dire che c'è un rischio di alta corruzione, può essere anche vero, basta guardare le statistiche giudiziarie dell'Istat, anche se appunto non riguardano tanto la politica, ma la differenza è abissale, perché Tangentopoli che cos'era? Era la politica che si finanziava illegalmente, a margine della quale c'erano anche dei reati di basso livello, erano i partiti che c'erano e oggi non ci sono più, che si accordavano tra di loro, a Milano arrivavano ad avere un cassiere in comune rispetto a un cartello di imprese che sfalsava il mercato, sfalsava i costi verso l'alto, e c'era la cosiddetta dazione ambientale, che significa che non si capiva insomma chi ricattava chi, perché poi ciascuno si descriveva come ricattato dall'altro. Invece oggi cosa abbiamo? Abbiamo un'altra legge sul finanziamento della politica che fa sì che i partiti, che non ci sono più, becchino un sacco di soldi alla fine, non abbiamo più i voti di preferenza e certe campagne elettorali che appunto avevano anche dei costi, quei signorotti delle tessere e tutto quanto, tendono a essere spariti, a parte i riciclati, tanti politici professionisti, è cambiato il sistema elettorale, non c'è più una parte dell'immunità parlamentare, insomma sono cambiate anche delle leggi, penso al falso in bilancio che è stato ripenalizzato, insomma io credo che lo scenario sia chiaro: abbiamo da una parte grandissimi o grandi scandali finanziari, Parma, Cirio, Anton Veneta, quelle cose lì, e dall'altra parte continua e forse addirittura di più, addirittura il triplo secondo l'Istat, la corruzione però di basso livello, quella che è anche nella società civile, quella insomma che arriva appunto anche, e concludo, i concorsi pubblici, tanti piccoli scandali che abbiamo visto e di cui tuttavia un Milko Pennisi a Milano fa tutto sommato parte. Quella teoria insomma delle piccole e poche mele marce. Gianni Barbacetto? Rispetto a quello che era il sistema, certo. Gianni Barbacetto oggi invece scrive sul Fatto, appunto, Tangentopoli, il sistema che non muore. Certo, è cambiato il sistema, lei scrive Barbacetto, però poi alla fine siamo sempre lì invece, una Tangentopoli che non è mai finita e anzi può ripartire. Perché secondo lei? Perché dunque il sistema, che il sistema sia diverso, per forza, basta guardarlo. Allora, 18 anni fa, c'era un sistema scientifico in cui il vecchio sistema dei partiti, quello nato quello della Prima Repubblica, si spartiva in maniera scientifica con delle carature proprio preordinate, le percentuali sugli appalti, con il cassiere unico dei partiti che raccoglieva dal cassiere, dall'imprenditore la mazzetta e poi la distribuiva tra partiti d'opposizione e di maggioranza. A Milano succedeva così. Una cosa così scientifica oggi non c'è, e quindi da questo punto di vista possiamo dire il sistema è cambiato, ma c'è un altro sistema con caratteristiche diverse. Perché diciamo dentro un sistema dei partiti che è cambiato, che è diverso, ma non meno pervasivo di allora, quindi è una Tangentopoli diversa, ma per l'essenziale che resiste, perché la corruzione non solo c'è, ma forse chissà è anche addirittura aumentata. Se andiamo a vedere i dati per esempio della Corte dei Conti, La Corte dei Conti segnala un aumento di denunce per corruzione, segnala aumento anche di denunce per abuso d'ufficio, per concussione, per corruzione, denuncia un gravissimo danno erariale causato dalle tangenti, dalla corruzione e dalla concussione. Insomma, la politica è altamente compromessa ancora, anche se è una politica che si è organizzata diversamente rispetto a 18 anni fa. Quanto alle piccole mele marce, io proprio non ci sto, perché basta guardare la cronaca. Se noi allineiamo i fatti di cronaca e di corruzione degli ultimi mesi, per non dire degli ultimi anni, abbiamo centinaia e centinaia di episodi che toccano anche ministri della Repubblica. Ora, come si faccia a chiudere gli occhi e a dire che si tratta solo di una volpe nel pollaio, francamente non riesco. E questo è il punto essenziale. Facci, da questo punto di vista, oggi Barbacetto scrive: c'è l'atteggiamento un po' quello dell'epoca Mani Pulite, cioè arrestato Mario Chiesa, che poi fu scaricato, comunque ci fu quella frase di Craxi, un bariuolo, insomma, e da lì quasi il timore di molti che starebbero pensando: che facciamo, parliamo, diciamo anche noi, i PM arrivano prima, è meglio che ci andiamo a parlare perché il sistema rischia di crollare. Ecco, lei facci vedere questa ipotesi oppure no, tutto circoscritto, è tutto preso Pennisi, finito tutto. Non so se vi siete accorti che io e Barbacetto abbiamo detto le stesse cose sostanzialmente. Sì. Io l'ho detto un po' meglio come al solito, però insomma diamo nomi diversi alla stessa cosa. E nel caso non proprio la stessa cosa, insomma, che sia la mela marcia, forse su questo Barbacetto non è d'accordo, insomma, che sia un sistema più diffuso invece sì. Sì, allora io distinguerei, nel senso che c'è più corruzione ma è meno diffusa fra la politica. Nel caso specifico, io non so se la cosa faccia piacere o dispiacere, ma nel caso di Milko Pennisi a Milano, io non so, a me non piace l'espressione mela marcia. Non è che per forza c'è o la mela marcia o è marcia tutto il paniere o il cestino, come si dice. Nel caso di Pennisi è qualcosa che ci assomiglia molto, però, perché c'è, è un signore che in carcere rispetto a Mario Chiesa, no, Mario Chiesa faceva parte di un ampissimo sistema di potere, poteva fare eleggere altri personaggi, tra i quali il figlio di Craxi, insomma, aveva grandi ambizioni. Milko Pennisi, l'unica mappa del potere, insomma, che è in grado di disegnare i magistrati, è quella della discoteca della Lombardia. Quindi, insomma, è un personaggio che prendeva delle tangentine di un certo tipo e anche volendo, insomma, non può prospettare granché. Al capo della commissione urbanistica, però, Cioè, voglio dire, non una posizione. Certo, dopo 15 anni di consiglio comunale ha ottenuto quello, non ha mai ottenuto un assessorato e ci lucrava sicuramente, probabilmente non solo lì, ma non è in dubbio, ma non fa parte di un sistema. Se ci sono altre corruzioni, ognuno se le gestisce da solo, non so come dire. Non fa parte di un sistema. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Ci chiediamo se c'è il rischio di una nuova Tangentopoli 18 anni dopo l'arresto di Mario Chiesa. La percentuale che dice sì è scesa, nel frattempo è al 60%. Vorrei chiedere a Gianni Barbacetto questo. Fini, il presidente della Camera, ha detto, come ha ribadito anche il nostro Luca Magni, come è la teoria di molti, allora si rubava per il sistema partitico, ora si ruba soprattutto per arricchimento personale. Fini ha aggiunto, non che questo sia una consolazione, anzi è un aggravante, ma questo fa cambiare un po' le carte in tavola? Fa fare qualche riflessione particolare, Barbacetto? Sì, io non condivido del tutto questa cosa, non è solo così. Intanto bisogna fare delle distinzioni, cioè mettersi d'accordo sulle parole, perché altrimenti poi non si riesce più a parlare. Allora, che cos'è Tangentopoli e che cos'è Mani Pulite? Io credo che oggi ci sia Tangentopoli, non c'è Mani Pulite, cioè c'è un sistema della corruzione. Non c'è alle viste una grande inchiesta che possa scoperchiare il sistema e debellarlo. Questo per tanti motivi, perché in questi 18 anni, mentre non è diminuita la corruzione, è cambiato qualcosa dalla parte dall'altra parte, cioè i magistrati sono stati messi in grado di non disturbare troppo, sono state cambiate delle leggi, sono stati depenalizzati i reati, sono stati aumentati i termini di prescrizione, si stanno introducendo limiti alle intercettazioni, per cui sarà impossibile fare oggi è impossibile fare una grande indagine come quella di Mani Pulite, però Tangentopoli c'è. Allora, ci si può tranquillizzare, come fa Facci, come fanno altri, dicendo ci sono piccoli episodi di corruzione, c'è il Milco Pennisi, insomma, ma non c'è un sistema organizzato. Allora, secondo me, a mio parere, guardando la cronaca, è vero che non c'è un sistema scientifico in cui, diciamo, i cassieri centrali dei partiti organizzano dall'alto la raccolta delle mazzette, come succedeva per il sistema Tangentopoli classico. Credo che oggi ci sia un fai da te generale, cioè ciascun cacicco, ciascun capobastone del partito si organizza la sua raccolta per conto suo, ma questo non lo fa solo il livello piccolo, sì, basso, amministrativo, il Milco Pennisi, lo si fa anche a livelli alti. Quindi in questo il sistema rimane, anche se ha cambiato le forme. Rimane meno scientifico, perché se guardiamo lo scandalo Grossi delle bonifiche, se guardiamo il fatto che a Milano non c'è una clinica privata che non sia stata beccata con cose di corruzione, il sistema della protezione civile, Denis Verdini, Cosentino, sì, che fa affari con la mafia, insomma, se mettiamo insieme tutte le cose si vede che il sistema è completamente, certo, marcio. Allora, io vorrei tornare dal nostro Luca Magni. Luca Magni, lei ha ascoltato, sono passati appunto 18 anni, questo per la cronaca, vogliamo ricordarlo, lei quando denunciò allora Tangente, nel giro di un anno che successe, che gli tolsero tutte le commissioni, lei non poté lavorare praticamente più con nessuno perché fu considerato una persona inaffidabile perché aveva parlato così, e di fatto lei fallì con la sua impresa, è così? Esattamente, vedete, il discorso è questo. Io posso dire che non mi rendevo conto di quello che poteva succedere dal mio gesto. Sì. Potevano rendersi conto le persone che, tra virgolette, mi hanno usato, a cominciare dal dottor Di Pietro. Perché dice usato? Usato perché io ho fatto la mia denuncia, cosa che non aveva mai fatto nessuno o che era successo raramente. Io pensavo di fare una cosa giusta e penso tuttora di averla fatta, e quando mi sono trovato nella condizione che nel giro di pochissimo tempo perdevo tutti i lavori e mi crollava tutto addosso, queste persone che sono diventate famose, sono diventate ministri, sono diventate molto importanti, nessuna di queste persone, ripeto, a cominciare da Di Pietro, si è mai degnato di capire quello che mi stava succedendo e si è mai degnato di farmi una telefonata. Anche solo di solidarietà. Anche solo di solidarietà. Tant'è vero che anche ultimamente, in un'intervista che ho sentito, secondo lui il mio ruolo è stato minimo, perché secondo lui sono stato la chiavetta che ha fatto partire la macchina. Il problema è che la macchina è partita da sola, perché se io non facevo la mia denuncia non era un problema di magistrati che allora potevano fare il loro lavoro. I magistrati si sono trovati tutto pronto davanti, perché da quando Mario Chiesa ha iniziato a parlare è da lì che è iniziato tutto. Quindi lei dice: io per nulla pentito, lo rifarei, ma certo si è sentito usato. Beh, sono parole anche forti, sono sentimenti che lei dopo 18 anni sente ancora molto. Ma questa è la realtà dei fatti. I fatti sono andati così. Loro si sono trovati, grazie a me, si sono trovati la chiavetta che ha fatto partire la macchina, ma la macchina era già lì, ma la macchina non l'avevano loro. La macchina è partita quando hanno iniziato a parlare tutti. E allora il dottor Di Pietro è andato dietro alle cose. Un'altra cosa che lei ha sottolineato all'inizio, vorrei chiudere con questo: sono passati 18 anni, lei dice, prima che un altro imprenditore, forse in realtà qualcun altro c'è stato, insomma, che ha denunciato le mazzette, però voglio dire, sono passati così tanti anni e già questo la fa riflettere su che cosa? Mi fa riflettere sul fatto che persone che fanno quello che ho fatto io sono persone che vengono lasciate sole, che per cui non c'è un sistema che porti le persone a ribellarsi a queste cose, perché nel momento in cui si ribellano vanno incontro a quello cui sono andato incontro io. Lei sa che 2 anni fa poi Mario Chiesa è stato riarrestato, poi credo abbia patteggiato per un'altra vicenda, insomma, ma sempre l'accusa era tangenti. Vabbè, lì nell'ambito del sistema di Tangentopoli c'era anche chi comunque si arricchiva, come era il caso di Mario Chiesa. Io oggi lei che fa, giusto per chiudere? Cioè... Io ho ancora una società di servizi. No, le faccio questa domanda diretta, ma se è brutale, ma magari non a lei, ma ci sono le tangenti ancora, sì. Io non lavoro col pubblico, per cui non lavoro esclusivamente con aziende private. Che lei sappia, ci sono? Le giungono voci? Da ma altri? Ci saranno sicuramente, ma come ho detto all'inizio, la corruzione c'è in tutto, per cui sicuramente c'è anche nell'ambito lavorativo. Va bene, io mi fermo qui e ringrazio tutti Luca Magni, così come Filippo Facci e Gianni Barbacetto di Libero e del Fatto Quotidiano, che oggi ne scrivono. Se volete approfondire Tangentopoli, continua il nostro sondaggio, c'è un rischio di un ritorno di Tangentopoli, una nuova Tangentopoli, una nuova Mani Pulite della verità 18 anni dopo. Votate su Radio24.it, dalla linea Oscar Giannino, si parla ancora di giustizia orologeria, c'è ospite il ministro Bondi a 9 in punto tra gli altri, e allora linea Oscar Giannino, noi ci sentiamo domattina, grazie a Sara Spreafico in redazione, Peter Bescapè in regia, a domani.